A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Abbiamo detto, lo Stato ha vinto, Zagaria esci. L'hanno trovato laddove sapevano che fosse, nelle viscere della sua terra. Dopo averlo cercato per 16 anni, l'hanno catturato nel covo sotterraneo di 6 metri, senza luci e senza aria, divenuto il suo quartier generale. È metà mattina e il sole splende a Capa Pesenna, quando lo Stato, il 7 dicembre 2011, espugna il bunker del superboss di Gomorra, Michele Zagaria. E da qui, da questo bunker, da Vico Mascagni, davanti al cancello della villetta che custodiva il capo dei casalesi, parte questa puntata di A ciascuno il suo. Fantasma per quasi tutti, Capastorta, un nomignolo che Michele Zagaria si portava dietro da sempre per via della sua conformazione fisica. Lo chiamavano anche il Monaco, proprio per la sua vita, senza legami né famiglia, ma ugualmente tutto avveniva nel suo nome, nel feudo dei casalesi, e tutto si reggeva su di lui, dagli affari sulla monnezza al business del cemento, dall'imposizione del caffè o del latte nei bar alla regola del 5% del pizzo per tutti. Cresciuto insieme al mito della sua imprendibilità, era diventato il numero uno dopo le catture di Schiavone, Setola e poi Don Inno, Antonio Iovine. Proprio per questo, ancor di più, lui s'affumò, si fece cioè come fumo, per dirla con un'espressione cara ai siciliani, di cui Zagaria imitava stili e abitudini comportandosi da padrino. Ma dopo 16 anni il boss, che si era fatto fantasma, si è ritrovato davanti nel suo bunker senza aria e senza luci il magistrato che da più tempo lo cercava, Federico Caffiero De Rao, procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Il latitante e il magistrato, la preda e il cacciatore. Quando si sono ritrovati l'uno di fronte all'altra, Zagaria gli ha detto: ora la conosco di persona, ci racconta. Necessariamente, da sempre, il camorrista si è nascosto nel proprio territorio. Mario Caterino, Nicola Schiavone, Francesco Schiavone sono stati tutti nel loro territorio. Ecco, procuratore, se lei dovesse indicare il momento in cui, diciamo, nelle vostre lunghe indagini per arrivare alla cattura di Zagaria, c'è stata una svolta? Poi avevamo degli elementi che ci consentivano di sospettare fondatamente che fosse in quella casa. Se ad esempio nella cattura di Provenzano si seguì il cammino fatto da alcuni suoi pizzini all'interno di ceste e di, diciamo, oggetti che venivano fatti arrivare al superlatitante, c'è stato qualcosa di analogo anche per la cattura di Zagaria? No, assolutamente no, ma noi, guardi, obiettivi in cui potevamo fondatamente sospettare che vi fosse Michele Zagaria ne abbiamo avuti tanti in passato, e tanti sono stati i nostri interventi, e ognuno di essi, laddove abbiamo individuato il bunker, ci ha consentito di rilevare alcuni segnali della presenza. Voi non molto tempo fa avevate arrestato anche tutta una serie di persone che erano intorno a lui, persone che avevano aiutato e favorito la sua latitanza. Possiamo dire che forse quello è stato un momento in cui davvero, diciamo, si è cominciato un po' a fare terra bruciata intorno al superboss e che avete cominciato a sentire più vicina la sua cattura? Noi abbiamo innanzitutto cambiato la strategia nei confronti di Zagaria da circa un anno e mezzo. Mentre nei confronti di Zagaria c'era una strategia che era finalizzata all'indagine fino alla certezza della sua presenza, poi abbiamo deciso, visto che questa strategia non pagava, perché per 14 anni non ci aveva dato risultati, l'abbiamo modificata. La strategia è stata quella di intervenire comunque ogni qualvolta avevamo un fondato sospetto e arrestare tutti i componenti e la rete che lo sostenevano, e questa è stata una strategia vincente, perché Zagaria si è visto sottrarre di volta in volta gli uomini che ne coprivano e ne favorivano la latitanza, o che gli consentivano di avere collegamenti con il gruppo, per cui ha dovuto rinnovare gli elementi a lui fedeli, e questo comunque gli ha creato delle difficoltà. Sarà asciugata e di molto l'acqua intorno al boss, se il suo bunker era sotto la villetta di Vincenzo Inquieto, nonostante proprio nella casa del fratello già mesi fa i PM lo avevano cercato. E ora da qui, da loro, le indagini ripartono per ricostruire anche tutta la rete degli altri fiancheggiatori, quelli che ad esempio avevano costruito il bunker super tecnologico in cui Zagaria viveva. Lì è sceso anche il procuratore Cafiero. Abbiamo cominciato a procedere in questo modo, smontando tutti i battiscopa. E sono stati elementi che a un certo momento abbiamo trovato. Una discontinuità sul pavimento. Quella discontinuità ci ha segnalato che c'era certamente qualche cosa di anomalo sotto quel pavimento. E lì abbiamo cominciato a battere. Abbiamo tolto la corrente e là c'è stata una reazione. Quando è restato senza corrente ha cominciato a parlare. E quando ha parlato, a quel punto è stato scoperto. La nostra preoccupazione era che potesse avere delle vie di fuga alternative. Fortunatamente non ne aveva. È stato necessario l'intervento di un'ambulanza. Quando è mancata l'energia elettrica, il bunker per la collocazione che ha manca di prese dirette di aria, quindi ha bisogno di aereatori. È evidente che nel momento in cui è mancato il collegamento, è mancata l'energia elettrica, non hanno funzionato gli aereatori e è possibile che abbia avuto qualche preoccupazione. Nel momento in cui il bunker si è aperto, era in perfette condizioni. Ma quindi l'avete chiamata voi, l'ambulanza? La si è chiamata nella preoccupazione che non si riuscisse a riattivare il collegamento elettrico e con questo potevano esserci conseguenze per il latitante che si trovava in quel bunker chiuso. A un certo punto era stato detto che lui avesse detto non buttate giù il muro, se no muoio. Nel momento in cui il muro fosse stato gettato a terra ne sarebbe potuto derivare un crollo di tutta quanta la costruzione. Tecnologico per il modo in cui era costruito, addirittura aveva una parte che muoveva su binari e quindi finiva per collegarsi direttamente al muro in modo da chiudere qualunque intercapedine. Nel momento in cui invece il latitante doveva uscire, ancora una parte del bunker si muoveva per lasciar comparire una scaletta a pioli metallica che portava su. Un computer che è stato sequestrato, un crocifisso alla parete, dei giubbini di pelle e dei libri, su cui torneremo. Ma soprattutto, dicevamo, tutto l'apparato tecnologico che permetteva al bunker di aprirsi e chiudersi a seconda dell'occorrenza. Un aspetto questo che il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, ha sottolineato per prima cosa. Viste le particolarità che aveva questo nascondiglio, questo covo, richiedono veramente delle competenze, delle tecnologie che certamente non potevano essere del latitante. Sarò soddisfatto appieno quando sarà arrestato anche chi ha costruito questo bunker, chi l'ha progettato e chi l'ha fatto costruire. Sensazioni che ci coprono di brividi. Solo la sua terra lo poteva nascondere nelle sue viscere per così tanto tempo. Solo nel suo feudo Zagaria poteva contare ancora su coperture e appoggi. Solo restando lì poteva continuare a comandare dalla fossa sottoterra divenuta il suo quartier generale. E per questo, anche se per quasi tutti restava un fantasma, la sua cattura è stata accompagnata, oltre che dalla festa degli inquirenti e dalla gioia della stragrande maggioranza della gente del posto, anche dalle benedizioni di chi continuava a ringraziarlo per aver trovato sempre in lui un aiuto. In lui e non in quello stato che però dentro quel bunker ha vinto la sua partita, come hanno ricordato al superboss quando ormai era in trappola. Lo racconta chi c'era in quei momenti, come il procuratore Cafiero De Rao. Parlato con il proprietario, quello che lo teneva, in tutto il tempo in cui non ha avuto energia per capire cosa stesse succedendo. Quindi abbiamo avuto la conferma che stava sotto e a quel punto gli si è detto di uscire, si è comportato in modo molto rispettoso e abbiamo detto lo Stato ha vinto, Zagaria esci. E lui a quel punto? Non ha detto nulla. Quando sono sceso io mi si è avvicinato e mi ha detto dottor Cafiero ora la vedo di persona e mi ha salutato. Poi non ha detto più nulla. Né ha voluto parlare di alcunché. Avete capito dai segnali, dalle tracce, da quanto tempo si nascondeva in quel preciso bunker? Penso comunque da molto. a ciascuno il suo. Io credo che si mette la parola fine al clan dei Casalesi, quello che è nato nell'88 dopo la morte di Barberino. Tutto quello che sarà dopo, e non credo che significa liberazione del territorio, comunque sarà diverso. Ora il clan dei Casalesi cambierà pelle, assicura Raffaele Cantone, già PM alla direzione distrettuale antimafia di Napoli, già anche lui personalmente impegnato nella cattura di Michele Zagaria, temuto e minacciato dagli stessi boss che leggevano pure i suoi libri, come hanno provato i saggi trovati nello stesso bunker di Capastorta. Non me l'aspettavo, ma non mi meraviglia più di tanto, perché non è la prima volta che boss di questo livello dimostrano di essere informati di quello che avviene intorno a loro, quindi non mi meraviglia più di tanto. Come lei diceva, non è il primo, molti altri grandi boss avevano nei propri bunker libri di magistrati o di giornalisti che si occupano delle loro vicende, diciamo così. Che vuol dire? Perché i boss hanno, guardi, i libri di chi scrive di malavita? Io credo che prima di tutto sia sempre un momento di autocelebrazione, perché il potere che è tipico di chi esercita, esercitato da chi svolge queste attività, chi fa il camorrista, vive molto anche di autocelebrazione. Lo stesso fatto che i grandi boss chiudono la loro carriera dicendo ai poliziotti complimenti, in realtà fanno complimenti a se stesso, perché si auto celebrano nel loro ruolo criminale. Poi io credo che c'è l'aspetto dell'informazione, perché loro hanno moltissima paura e timore che al di là della scoperta dei reati vengano scoperte le trame, cioè quello che c'è dietro la loro attività, e quindi io credo che anche la lettura di libri può essere per loro utile per capire quanto hanno capito gli altri le cose che loro fanno. Chi potrà prendere ora il suo posto nel clan è difficile dirlo, mentre è invece ben chiaro a tutti che non è finita qui. Lo ha ricordato lo stesso procuratore capo di Napoli, Gian Domenico Lepore, pur festeggiando quel regalo che, rivela, gli era stato promesso dalle forze dell'ordine prima di andare in pensione. E chiaramente è un molto significativo. Tutti i clan, dopo quelli napoletani, è stato distrutto anche dal punto di vista dei vertici il clan dei Casalesi, perché abbiamo preso Iori, abbiamo preso Zaccheri. Però ciò non significa che la guerra è vinta, anzi tutt'altro, purtroppo. Però questo risultato è un risultato veramente eccellente, è un risultato che naturalmente mi fa andare in pensione molto. Io non ci voglio andare in pensione, ma mia mamma voglia, mi pare che posso andare in pensione, e quindi è un risultato che veramente mi fa gioire. Alla cattura di Zagaria, immortalato negli scatti all'uscita dal bunker dietro al boss, c'è anche Vittorio Pisani, il super poliziotto, allontanato da Napoli dalla squadra mobile perché indagato, ma il procuratore partenopeo Lepore lo difende. Diciamo, il dottor Pisani è stato, oltre che amico mio, ed è un ottimo funzionario di polizia. Ciò non toglie che anche un ottimo funzionario di polizia può essere autore di qualche errore, e quindi naturalmente deve rispondere di questo errore. D'altra parte lui ora fa parte dello scopo, quindi ha messo a disposizione tutta la sua esperienza e le sue notizie. Se naturalmente, come lui sostiene, è completamente strano, lo proverà davanti a un giudice terzo, saremo più felici di questo. Troppo gelosa, ma ti giuro che mi piaci come sei. Catturato il super latitante, dunque, la caccia ai boss della camorra non è affatto finita, perché la sua storia ha dimostrato un consolidato meccanismo di sostituzione, messo in atto già con le altre celebri catture, come ricorda il procuratore Cafiero De Rao. Il clan dei Casalesi è radicato sul territorio attraverso un'organizzazione stabile che si forma anche con livelli intermedi, finiscono poi per individuare coloro che seguono il ruolo del capo e che finiscono per assumerne le funzioni nel momento in cui questi viene tratto in arresto. Come non ci sono stati dei grossi sconvolgimenti con l'arresto di Francesco Schiavone, con l'arresto di Antonio Iovine, così penso non ce ne saranno con l'arresto di Michele Zagaria. È evidente però che viene meno un riferimento, che era la persona a nome della quale si andavano a eseguire le estorsioni. Michele Zagaria era diventato il simbolo della inafferrabilità, anche della potenza del clan. Con il suo arresto anche la popolazione comincerà ad avere maggiore fiducia. Ma bambola. Sogno ancora ad occhi aperti, tu sei magica. E la sostituzione nell'organigramma criminale avrà delle ripercussioni anche nella gestione degli affari. Il cemento, dalle autostrade ai centri commerciali, dalla Campania all'Emilia Romagna attraverso il fratello Pasquale Zagaria fino alla Spagna. E poi ancora il pizzo, quel 5% che tutti dovevano pagare. E quelle estorsioni imposte anche a marchi celebri come Cirio e Parmalat. Anche così ha costruito il suo potere Michele Zagaria, che era emerso da tempo, come è ricostruito anche nella sentenza del processo Spartacus, il maxi processo ai casalesi. A scriverla anche il giudice Raffaello Maggi. Si chiude una partita, diciamo, iniziata nel 1995, quindi ben 16 anni fa. In quel momento Michele Zagaria era l'uomo cerniera tra i vari gruppi dell'organizzazione, in particolare tra il gruppo Bidognetti e il gruppo Schiavone. Era capace non solo di sparare, ma anche di investire le risorse economiche, soprattutto nel settore del calcestruzzo, del cemento. Ovviamente noi lo abbiamo condannato per concorso in omicidio, perché era stato anche un killer. Da quel momento, dal 1995 ad oggi, i 16 anni trascorsi in una lunghissima latitanza, chiaramente ne hanno poi enormemente accresciuto l'importanza, perché è riuscito a sfruttare, diciamo, l'arresto degli altri capi storici e a creare intorno a sé una rete, diciamo, fittissima di relazioni, e quindi chiaramente è diventato, diciamo, il numero uno nel corso del tempo. Il suo soprannome è Capastorta, perché? Credo che questo derivi un po' da una conformazione, diciamo, fisica. Lui è sempre stato molto abile e molto intelligente. Pensate che negli ultimi tempi i pentiti che hanno parlato di lui non sapevano dire dove si trovasse, perché anche le persone più vicine a lui venivano accompagnate all'interno di autovetture, diciamo, schermate. Per quanto riguarda i suoi affari, è stato detto che era il boss imprenditore, affari soprattutto nell'edilizia, nel cemento, affari che dalla Campania hanno portato ad espandere il business dei casalesi molto anche al nord Italia, anche in particolar modo nell'Emilia. Sicuramente c'è il condizionamento del mercato del calcestruzzo per le forniture, le più grosse forniture nella costruzione di opere pubbliche, strade, ponti, diciamo, e anche altre cose. Michele Zagaria, appunto, come dicevo prima, è cresciuto in quella scuola e diciamo, ha ereditato ovviamente i contatti e diciamo, le capacità di queste persone nel frattempo arrestate, perché non ci dimentichiamo che Bidognetti è stato arrestato nel 1993, Schiavone nel 1998. Insomma, gli anni che sono passati nel frattempo sono tutti anni in cui Michele Zagaria sostanzialmente ha potuto governare un impero economico che era stato avviato, diciamo, già all'inizio degli anni 90. Questo lo ha reso anche molto più, diciamo, temibile e anche molto meglio difeso, diciamo, rispetto agli altri, perché evidentemente i movimenti di denaro intorno a lui e intorno alla sua latitanza sono stati notevoli e tali da proteggerlo. A ciascuno il suo, termina qui. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, e sull'audioblog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.